24 Mattino. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli. Queste note molti di voi le avranno riconosciute, è una delle canzoni più famose di Leonard Cohen, che è scomparso, è morto questa notte. Io ho ricevuto un messaggino della CNN alle 3, quindi non troverete la notizia sui giornali, ma sicuramente nei prossimi GR ci sarà modo di ricordarlo. Una grande voce, un grande cantautore, aveva appunto 82 anni e ci lascia un patrimonio di canzoni, quasi delle poesie. Viene un po' anche da paragonarlo ad altri cantautori americani come il famosissimo Bob Dylan, che non si sa ancora se andrà a ritirare il premio Nobel che gli è stato assegnato per la letteratura. Detto questo, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Cominciamo a leggere e a vedere le prime pagine dei giornali. Cominciamo dal Sole 24 Ore, anche se poi alle 7.45 ci sarà Mauro Meazza e con lui non vedo l'ora di parlare dell'Inter, no scherzo. E comunque altre cose sul Sole 24 Ore ce le dirà lui. Il titolo è, come quello di moltissimi altri giornali, dedicato a quello che viene definito l'effetto Trump. Molti altri giornali si concentrano sul primo incontro che c'è stato ieri alla Casa Bianca tra Donald Trump e Barack Obama. Il Sole 24 Ore la prende proprio dall'angolo delle prime conseguenze economiche. Sapete che erano stati prefigurati scenari catastrofici e in effetti le prime borse a reagire alla vittoria di Trump, quelle asiatiche, erano scese nella mattina, presto di mercoledì mattina. Poi in realtà le borse europee e americane sono andate bene sia mercoledì che ieri. Da qui il titolo del Sole 24 Ore, effetto Trump, tassi in rialzo, Wall Street ai massimi storici. Trovate tra l'altro fino a pagina 3 tutti gli approfondimenti su questo, con molti anche tabelle, schemi per far capire proprio come il rialzo dei tassi si sia mosso dal 4 gennaio del 2016 a ieri. Questo lo trovate a pagina 3 e con un'analisi di Isabella Bufacchi, tanti motivi che spingono a vendere titoli di Stato. Corriere della Sera, Trump da Obama, come vi dicevo questa è un po' la notizia per la maggior parte degli altri quotidiani, corredata da una foto che credo sia davvero dappertutto e molto, purtroppo sulla carta dei giornali la definizione non è altissima, però sono veramente due facce che esprimono un mondo, perché insomma dietro alle espressioni di Barack Obama che stringe la mano a Donald Trump, ovviamente c'è appunto un mondo di emozioni, di pensieri, di contraddizioni. E un po' da questo volevo partire con i nostri ospiti, perché è la notizia del giorno, anche se già prevedo qualche ascoltatore che dice basta parlare di Trump, però insomma gli Stati Uniti sono il primo paese del mondo, il presidente degli Stati Uniti è l'uomo più potente del mondo e quindi dobbiamo occuparcene, dobbiamo cercare di capire, molto difficile da qui, questo voto. E quindi do il buongiorno, tra l'altro ci eravamo sentiti proprio venerdì scorso, ad Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, e a Luisella Costamagna, che non conosco di persona ma seguo da tantissimi anni, insomma prima quando andava spesso in TV e adesso che è diventata più una fedele della carta stampata. Quindi buongiorno. Buongiorno, piacere. E quindi magari ecco, iniziamo da Luisella. Come vedi tu questa a me interessa soprattutto questa reazione che c'è stata subito di Trump, che ha fatto un discorso quasi da statista proprio a pochi minuti dalla proclamazione, mettendo da parte e risultando anche secondo me credibile in questo tutte quelle cose terribili che aveva detto a Hillary, aveva anche detto nell'ultimo dibattito presidenziale: se io fossi presidente ti arresterei, io ti manderei in galera. Quindi siamo passati da questo a ringraziarla per il suo impegno istituzionale e anche per rendendo le l'onore delle armi. Ecco, tu come ti sembra questa giravolta? Perché di giravolta si tratta. Beh, diciamo che il primo discorso a caldo dopo il risultato elettorale è stato davvero molto conciliante, anche inaspettato, con grandi ringraziamenti. Qua e là forse venivano fuori gli elementi trampiani che avevamo sentito in campagna elettorale, ma colpito ad esempio il suo ringraziamento a tutti, ma poi in particolare a tre categorie: i veterani di guerra, i poliziotti e i servizi segreti. Dopodiché diciamo che dalla gratitudine, dalla conciliazione, che comunque secondo me è, insomma, è un passaggio inevitabile, credo che però sia un po' già venuto fuori, cioè nel dire aboliremo la riforma sanitaria di Obama, diciamo che il mantenimento di quelle aspettative negative che insomma aveva proposto in campagna elettorale. Quindi certo, da una parte sarà meglio di quanto non ci aspettiamo, esattamente come le borse, questi scenari sempre apocalittici, il crollo eccetera, poi i mercati si adattano, cercano, segui i soldi diciamo, e quindi segui i soldi, Wall Street è aperto in positivo, massimo storico, quindi voglio dire, poi le cose forse sono, diciamo, meno peggio di più che meglio, certo. Meno peggio di quanto uno si potesse aspettare. Ecco. Anche perché la grande delusione, almeno per quanto mi riguarda, è sulla Clinton, non che ci avessi sperato, però insomma questo, la vergogna di vedere a caldo lei che non parla e non ammette la sconfitta col suo popolo, lo manda a casa, praticamente a caldo non lo ringrazia neanche, diciamo che è stato un elemento insomma appunto vergognoso. Sì, effettivamente ha un po' confermato, ha dato ragione a tutti quelli che soprattutto la etichettavano da sempre come prima di tutto antipatica. Ma Angelo Maria, a te che effetto ha fatto questo? Perché io non ricordo in Italia una, ma del resto mi ricordo anche John McCain quando parlò immediatamente dopo la prima elezione di Barack Obama, fu un discorso emozionante, perché proprio disse è una cosa incredibile quella che ha fatto Obama, di avere così tante persone che hanno creduto in lui, in questo sogno, concedendo chiaramente l'eccezionalità del fatto del primo nero alla Casa Bianca. A te com'è sembrato insomma questo discorso di Trump e questo immediato incontro ieri con Obama, e anche se vuoi due parole sulla reazione invece di Hillary Clinton? Ma io direi che siamo stati spiazzati da questo evento inatteso, ma ciò che mi stimola a qualche pensiero è la incapacità di tutto il sistema dei media e degli analisti, dei sondaggisti, dei columnist, dei talk show, di capire e di prevedere quello che accadeva. Io penso sia successo qualcosa di sconcertante, non ho mai visto in tanti anni di giornalismo un tale conformismo a favore della Clinton e una tale demonizzazione dell'avversario, che va al di là dei personaggi stessi e delle loro realtà concrete. Proprio abbiamo costruito dei mostri, un mostro è la Clinton, persona secondo me impresentabile, del tutto screditata sia nella sua figura privata che pubblica, solo la moglie di Clinton, ed è stata dipinta come una grande candidata democratica, quando invece ce n'erano altri ben più credibili e autorevoli come Sanders, per esempio. Certo. Dall'altra parte Trump, il fenomeno Trump del tutto incompreso, e dunque il fenomeno degli americani che hanno votato Trump, e oggi tutti a raccontare dei barbari, a dire cose folli, la fine dell'illuminismo, sì, la vendetta, sì, sì, no, dell'uomo bianco. Vedremo, infatti i giornali sono ovviamente un po' a seconda della linea del giornale, però ce ne sono alcuni che oggi fanno proprio un collage di questi commenti italiani. Io penso che questa vicenda segna la morte del sistema dell'informazione, come si è prodotto fino a pre usare internet, diciamo, e per fortuna. Luisella, tu cosa questo sei? Establishment questo sì. Establishment, ci sono dentro anche loro i giornali, raccontano il palazzo, ma da contigui e da simili e similis cum similibus. Questo è ciò che sconcerta, ma personalmente io lavoro in internet e già 20 anni fa, quando lanciai Affari Italiani, dissi che quel mondo era morto. Mi succede le parole di Grillo che diceva: sono salme che parlano di tombe. Ecco, Luisella, tu sei altrettanto catastrofista sulla... Io lo sono, perché sia, insomma, è un'intervista ad Affari Italiani, sia ieri sul Fatto ho scritto esattamente questo, cioè questo è stato un tracollo dell'establishment. Vince Trump, ma perdono l'establishment della politica tradizionale, dei giornali, e dei sondaggisti e dei sondaggi, nel senso che è assolutamente vero che si parla di maggioranza silenziosa. Secondo me è l'incapacità, il totale scollamento dalla realtà di stampa e televisione, che non hanno saputo prevedere questa vittoria, così come sui sondaggi. Ipotizzo francamente che ormai insomma ci sia una tale distanza dalla realtà che sia anche un piegarsi in qualche modo forse alla propaganda più che all'obiettività, alla scientificità. Rispetto a quello che diceva il direttore, però, mi permetto di dire che non è la prima volta che lo vediamo. L'incapacità di decodificare il cittadino medio incazzato, come diceva il New York Times, che ha votato per Trump, è stata esattamente, quindi, di prevedere questa vittoria, è stata esattamente l'incapacità dei media e dei sondaggisti italiani nel riconoscere il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Ecco, sentiamo allora, sentiamo proprio la voce di Beppe Grillo, che ieri ha commentato, così come ha fatto Salvini. Li sentiamo tutti e due, perché sono tutti e due a loro modo, con parole diverse, però tutti e due molto contenti della vittoria di Trump. Non è questione di piacere o non piacere, analizzate il fenomeno, analizzate che cosa vuol dire che hanno sbagliato da 20 anni la politica estera degli Stati Uniti. Non crede all'effetto Serra, lei cosa ne pensa? Ma non... può credere quello che vuole. Adesso diventerà il presidente, diventerà secondo me un moderato, vedrete. Che goduria, perché fino a ieri, se simpatizzavi un minimo con Trump, eri un po' un maniaco sessuale, sicuramente un evasore fiscale, un tizio coi capelli strani. Ecco, sentiamo però, poi vi chiedo un po' un commento, perché appunto sicuramente Salvini lo ha sostenuto fin dall'inizio, Grillo forse un po' meno, e invece De Benedetti, che l'editore del gruppo Repubblica L'Espresso, ha sempre detto e si è sempre schierato per Hillary, anzi aveva previsto, facendo poi un mea culpa, che Hillary avrebbe vinto. Ma sentiamo cosa ha detto da Lilly Gruber 2 sere fa. È stato sempre un imbroglione, che è fallito 4 volte, che confondeva il suo patrimonio con i suoi debiti. Trump è una persona che varrà circa 200 milioni di dollari, lui dice di valere qualche miliardo. I debiti che ha, che sono i debiti, ma uno che confonde i debiti con il proprio patrimonio, c'è un problema. Al di là dell'opinione di De Benedetti, volevo chiedere a Angelo Maria, questo problema di non intercettare, come ha detto, facendomi a colpa a sua volta, al New York Times, il cosiddetto americano medio, forse il citizen journalism, questa possibilità di raccogliere in modo capillare le opinioni, le notizie che internet offre, forse alle prossime elezioni darà dei risultati migliori per chi dovrà fare delle previsioni? Assolutamente sì. Parlando di De Benedetti, io ho ascoltato la sua intervista sconcertante dalla Gruber, e immediatamente su Twitter si leggeva una caterva di commenti dei lettori con l'hashtag, appunto, mi pare, De Benedetti, che ricordava a lui, che definiva Trump un imbroglione, ricordava tutti gli imbrogli che De Benedetti ha compiuto in Italia, dal caso Sorgenia, un fallimento rifilato totale, alle banche, a tutte le vicende precedenti, al caso Olivetti, una dei gioielli dell'economia italiana, distrutta dall'azione dell'ingegnere. Credo che lui, Carlo De Benedetti, sia uno dei responsabili in Italia di questa contaminazione tra capitali privati, finanziari e media, che ha tolto, ha ucciso l'autonomia dei giornalisti e ha rovinato, diciamo, il clima complessivo che avrebbe consentito di raccontare questo paese. Quindi il famoso in modo più obiettivo. Conflitto di interessi che tanto si è ricordiamo rinfacciato. Dimmi. Che Benedetti è condannato in primo grado anche brava. Per morti per l'amianto, perché bravissimo, insomma esatto. È una macchia pesante. E io voglio dire, la Gruber nel presentarlo non dice tutte queste cose, certo, perché, no, perché De Benedetti fa parte del loro circolo, non va più bene, è questo che è cascato. E direi che più in generale, perché purtroppo siamo un paese con scarsissima memoria, no? Cioè cerchiamo sempre... Sì. No, ma facciamo degli sconti ai nostri amici, le cose fatte da Berlusconi le giustamente le stigmatizziamo, le cose fatte da persone della nostra area politica gli facciamo degli sconti. Questo non è giornalismo, è finito quel mondo, il web ha restituito la verità alle cose. Ecco, adesso ci fermiamo solo un attimo per una pausa sul traffico e torniamo su questi temi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... An Italian citizen as well. Yes, you got citizenship? Yeah. Did you ask for that? I'm gonna probably have to move there. Right? You might have to move there. Ecco, De Niro che dice I probably have to move there, cioè dice ho le mie origini italiane e mi emigrerò in Italia. Il riferimento naturalmente è al fatto che De Niro aveva postato un video veramente durissimo con toni che, se la sua intenzione era quella di convincere qualcuno a non votare Trump, a mio modo di vedere li ha quasi convinti a votare Trump, perché ha usato un linguaggio e delle espressioni fortissime, violente, e adesso minaccia, appunto, siccome Trump ha vinto, di venire a vivere in Italia. Tra l'altro, prima parlavamo di Berlusconi, ricordo numerose persone, naturalmente soprattutto del centrosinistra, che alle quali ho sentito dire: se Berlusconi rivince o se passa questa legge io vado a vivere all'estero. Naturalmente nessuno l'ha fatto, così come credo nessun americano andrà in Canada o altrove, così come nessun britannico emigrerà, anche se ci sarà la Brexit. Ecco, a voi cosa sembra di queste boutade, lo chiedo prima a Luisella, magari, di queste boutade che vengono fatte in campagna elettorale? Sappiamo che è stata una campagna elettorale dai toni mai così accesi, però forse appunto certe uscite tutti potrebbero risparmiarsele. Beh, diciamo che è stata appunto una campagna durissima, che le star di Hollywood si schierassero, quindi dai toni, si adattassero ai toni, da De Niro a Madonna, che insomma non ricordo cosa propose, per carità di patria, per far votare Hillary Clinton, però il livello era un po' questo. Ma credo che questo, insomma, sia abbastanza inevitabile. È vero, gli attacchi a Berlusconi, ma ricordo anche Berlusconi che diceva che chi votava il centro-sinistra era un coglione, per cui voglio dire, è sempre stato ripagato, gli schieramenti sono sempre stati contrapposti in questo modo. Torno, perché è una delle cose che non condivido, vedo paginate sulla rivoluzione, presunta rivoluzione femminile di Hillary Clinton, cioè tra gli elementi di questa campagna elettorale, anche del dopo vittoria di Trump, che francamente da donna mi è piaciuta di meno, e questa rappresentare Hillary come la rivoluzione femminile, al punto che lei stessa ha attribuito sostanzialmente la sconfitta al sessismo, dicendo: donne, non vi scoraggiate, il tetto di cristallo si romperà. Le ragioni per cui la Clinton ha perso sono assolutamente indipendenti dal fatto di essere donna, sono i suoi legami con la Casa Bianca da 15 anni, con un'incapacità di dare risposte sulla crisi economica al cittadino medio americano. Questo è quindi sfruttare la battaglia di genere come insomma elemento per andarla a votare o per giustificarne la sconfitta, è assolutamente strumentale. Da donna non avrei mai votato la Clinton perché era donna. Certo, no, sono d'accordo. Sui giornali, tra l'altro, oggi appunto tu ne hai già scritto, ne hai parlato, ma ci sono molti approfondimenti su questo. Però a proposito di donne, così poi do la parola ad Angelo Maria, sentiamo adesso una donna italiana che devo dire non ha mai premuto su questo tasto del genere, della quota rosa, che è la nostra ministra per le riforme istituzionali, la Boschi, che ieri è tornata a cercare di convincere a votare per il sì al referendum del 4 dicembre. Sentiamola un attimo. Per 30 anni è stata proposta nello stesso modo, perché io facevo il liceo quando c'era l'Ulivo che proponeva il Senato delle Regioni, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, e quelle stesse persone che lo proponevano allora oggi lo rinnegano, perché non è che non gli piaccia più la proposta, non gli piace il proponente, che per me è assurdo. Ecco, tutto sommato, però adesso non so chi intendesse lei esattamente come proponente, probabilmente Renzi e il PD di Renzi, però voi, insomma, adesso è passata una settimana, Angelo Maria, da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta, vedi delle novità in questa campagna, sicuramente con toni a tratti molto aspri per il referendum? Ma intanto sulla Boschi devo dire che ero rimasto sconcertato proprio la sera del voto nel vederla saltellare da una rete all'altra dicendo forza Clinton, forza Clinton. Ci eravamo detti venerdì scorso, tu mi hai chiesto come voti, ti ho detto che un direttore di giornale deve garantire l'obiettività e Affari Italiani si sforza di essere obiettivo, e quindi non dirò come io la penso. La Boschi ha violato questo principio, e come l'ha violato in modo anche tragicomico Renzi davanti a Minoli, ha detto con assoluta sicumera vince Clinton. Ecco, se vuoi, l'impatto che ha sul nostro referendum la vicenda di Trump è proprio questa, la novità che tu mi chiedi è questa, il discredito di dei proponenti che, essendo persone pubbliche e rappresentative delle istituzioni, hanno portato la discussione a livelli partigiani che non ci si aspettava. Un governo non deve, certo. Il governo si definisce esecutivo, quindi esegue le leggi che fa il Parlamento. Questo interventismo di Renzi e dei suoi è assolutamente fuori posto, sì, ma nessuno lo ha contrastato. Si sta rivoltando contro. Luisella, tu cosa pensi? Hai un minuto per dirci anche tu come sì, ti no, sembra? Credo che si sia ritorto contro, cioè 2 settimane fa, quando era che sono andati in carovana con Benigni e Sorrentino alla Casa Bianca con Obama, anche il povero Armani, oramai vecchiotto. Appunto, tutti le cucuzzaro sono andati lì e adesso insomma si trovano una Casa Bianca diversa, e quell'endorsement degli Stati Uniti anche tramite l'ambasciatore americano in Italia per il sì al referendum, se no crolleranno gli investimenti, in realtà gli si ritorce contro. Dopodiché, secondo me, c'è un legame, lo proponevo ieri, tra la vittoria di Trump e il referendum in Italia, con una suggestione, una riflessione, cioè se il Trump davvero guerrafondaio e di destra, xenofobo e anti-islamico, può essere contenuto da un sistema istituzionale americano, appunto, che ha pesi e contrappesi, mi domando se con questa riforma costituzionale il Parlamento avrà davvero i pesi e contrappesi istituzionali necessari per contenere un eventuale Trump italiano in future elezioni. E lì i costituzionalisti, non io ma gente competente, sì, come Zagrebelsky, dicono di no. Quindi la riflessione che loro continuano a dire, non la vogliono la riforma perché ce l'hanno con noi, no, perché è una pessima riforma, orrenda, che rovina il nostro sistema istituzionale. Vedremo insomma come andrà quest'ultimo mese di campagna elettorale. Un grazie a Luisella Costamagna e Angelo Maria Perrino, ancora un buongiorno da Giulia Crivelli, ci risentiamo subito dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta "24 mattino".